perfetto giorno. Al Consiglio europeo il piano per la ripresa per la lotta al Covid. L'Europa non può permettersi di sprecare questa opportunità, avverte la presidente della Commissione von der Leyen. È la recessione più grave della Seconda Guerra Mondiale, piano da varare entro l'estate, avverte la cancelliera Merkel. Coronavirus isolato in Cina, il Peking University Hospital. In Italia nuovo focolaio in una casa di riposo in provincia di Alessandria. San Francisco smantella la statua di Cristoforo Colombo, rappresenta schiavitù, sottomissione e conquista, fa sapere il comune. In Italia ribattezzata via George Floyd, la via dedicata ad una battaglia per la riconquista dell'Etiopia. 3 milioni di euro finiti in tasca anziché nel rilancio dell'azienda, 5 indagati e sequestri alla società che aveva rilevato la ex Embraco di Riva di Chieri. È morto lo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón, il romanzo più famoso L'ombra del vento. Serie A, domani la ripartenza, sciolto anche l'ultimo nodo, quarantena soft in caso di nuovo positivo. E allora ripartiamo dal Consiglio europeo in corso, importante per la trattativa sul Recovery Fund, finanziamenti previsti per ridare fiato ad un'Europa piegata dalla pandemia. Ci colleghiamo con il nostro Sergio Nava. Sergio. Sì, buongiorno. In corso da 3 ore il primo vertice europeo dedicato al varo del Fondo per la ripresa comunitario. Ricordiamo che la tappa odierna sarà solamente interlocutoria. L'Unione Europea sta affrontando la recessione più grave dalla Seconda Guerra Mondiale e ha tutto l'interesse a varare il Recovery Plan entro la fine dell'estate, così avrebbe detto la cancelliera tedesca Angela Merkel agli altri leader. Resta però l'opposizione dei cosiddetti frugali, il cui capofila, il cancelliere austriaco Kurz, su Twitter non arretra. Il Recovery Fund non deve aprire la strada a un'unione del debito, perciò deve esserci un limite di tempo, si deve discutere di chi paga quanto, di chi beneficia di più e di quali condizioni vincolano gli aiuti. A suonare l'allarme, come sempre, la presidente della BCE Lagarde: i mercati finanziari sono a rischio se i governi europei non raggiungeranno un accordo sulle misure di stimolo per rilanciare e sostenere la ripresa economica dopo l'emergenza pandemica. Fonti parlano di uno scenario di sostanziale immobilismo, ognuno resta insomma sulle proprie posizioni, mentre 10 minuti fa ha preso la parola in videoconferenza anche il premier Conte. Noi vi lasciamo con le parole del presidente dell'Europarlamento Sassoli, che ha avvertito: non accetteremo passi indietro sul Recovery Fund. Sassoli chiede una riforma delle entrate di bilancio comunitarie con un sostanziale incremento delle risorse proprie. Poi ha aggiunto, e con questo restituisco la linea allo studio, sentiamo Sassoli. Per noi quella è una base di partenza, non si può tornare indietro, perché vogliamo un piano di ripresa e un QFP che riescano ad essere la benzina di un motore che deve ripartire. E torneremo sulla trattativa europea sui fondi post-Covid nel punto politico di Alberto Rioli alle 13.30 circa. Ora invece a Roma per il nuovo voto sul decreto elezioni dopo il pasticciaccio di ieri. Alla fine, la fiducia in Senato al decreto elezioni è arrivata. Dopo l'annullamento del voto di ieri per mancanza di numero legale, questa mattina l'aula di Palazzo Madama ha replicato il voto e con 158 sì è diventato legge il decreto sulle prossime elezioni locali e sull'Election Day con il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Il centrodestra, come già fatto ieri, non ha partecipato al voto e non sono mancate le polemiche. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, spiega che ieri c'è stato un errore informatico e si dice amareggiata. Sono abituata ad assumermi tutte le responsabilità, come si confà a chi presiede questa assemblea. Quindi non mi tiro indietro. A Villa Panfili intanto vanno avanti gli stati generali dell'economia. Nel pomeriggio i protagonisti della sesta giornata saranno gli ordini professionali e il Consiglio nazionale dei giovani, atteso in serata. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In Italia, dove il Covid-19 sarebbe arrivato molto prima del caso zero e sarebbe stato presente nelle acque di scarico di Milano e Torino già nel dicembre 2019, preoccupa ora un nuovo focolaio nella RSA di San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria. A livello globale, invece, dove per numero di contagi i primi tre paesi restano Stati Uniti, Brasile, ormai davvero al collasso, e Russia, arrivano novità dalla Cina sul focolaio di Pechino. Mentre in Brasile, secondo paese al mondo per vittime e per contagiati, presto supererà 1 milione di casi, continua l'emergenza con test insufficienti e aree remote come l'Amazzonia, dove il sistema sanitario è al collasso, in Cina si cerca di tenere sotto controllo il focolaio rilevato a Pechino all'interno del mercato all'ingrosso di Xinfadi. E l'ipotesi formulata da Zhang Yong, vice direttore del Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie cinese, è che il Covid-19 questa volta arrivi dall'Europa, ma a parte tenga ad un ceppo più vecchio di quello che sta colpendo attualmente il vecchio continente. Sempre nella capitale cinese si è poi deciso di isolare il Peking University International Hospital, fiore all'occhiello della sanità locale, dopo che un'infermiera è risultata positiva ai test per essere entrata in stretto contatto il 14 giugno scorso con un paziente del distretto di Haidian, dove si trova un altro dei mercati all'ingrosso in cui si sono registrati alcuni casi di Covid-19. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. Raid antirazzista nella notte in via dell'Amba Aradam a Roma. Amba Aradam è l'altopiano dove si consumò una delle battaglie per la conquista italiana dell'Etiopia. Nome coperto da un foglio con il nome di George Floyd e uno striscione: nessuna stazione abbia il nome dell'oppressione, firmato Black Lives Matter. Un'azione dunque sulla scia di quanto avvenuto a Milano con la statua di Montanelli. Ed è quello che sta accadendo anche negli Stati Uniti, dove il comune di San Francisco ha rimosso la statua di Cristoforo Colombo, come chiesto dal movimento Black Lives Matter statunitense. Si è trattato di un passo necessario, fa sapere il comune di San Francisco, secondo cui la statua rappresenta le fondamenta dolorose della storia del paese: schiavitù, sottomissione e conquista, tutti atti che siamo chiamati a condannare. La visita del ministro degli esteri Luigi Di Maio in Turchia, in agenda le relazioni politiche e commerciali fra i due paesi, la Libia e le trivellazioni di Ankara nel Mediterraneo. Torneremo a parlarne nel pomeriggio più approfonditamente in Nessun luogo lontano. Al microfono di Giampaolo Musumeci avremo anche l'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino. La cronaca ci porta fra Piemonte e Lombardia per le perquisizioni della Guardia di Finanza alla Ventures SRL, società che ha acquisito il ramo d'azienda della ex Embraco con la cessione del sito industriale di Riva di Chiere, in provincia di Torino. L'inchiesta parla di 3 milioni di euro che sarebbero finiti nelle tasche di 5 indagati anziché nel rilancio della ex Embraco. Nel mirino degli investigatori è finito anche un aumento di capitale effettuato da un socio con denaro che però sarebbe stato ricevuto dalla stessa azienda. L'esposto di un gruppo di operai era stato presentato qualche mese fa. Questa mattina l'intervento degli agenti della Guardia di Finanza di Torino con perquisizioni e sequestri nei confronti della Ventures SRL, la società che nell'ambito del piano di reindustrializzazione varato l'anno scorso ha acquisito lo stabilimento della ex Embraco di Riva di Chieri. Nessuna attività industriale è mai partita in questi mesi, eppure gli inquirenti hanno ricostruito flussi di denaro diretti anche all'estero che hanno lasciato a secco le casse della società e portato al pignoramento di risorse aziendali. Il PM Marco Gianolli ha depositato 2 giorni fa istanza di fallimento della Ventures e ha ipotizzato reati di bancarotta distrattiva. Nelle indagini sono coinvolti 4 fra dirigenti e manager e un consulente. In queste ore vengono messi sotto sequestro conti correnti, titoli e autovetture intestate all'azienda. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. È morto a Los Angeles lo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón, aveva 55 anni, aveva raggiunto la notorietà internazionale con il romanzo L'ombra del vento. E alla Casa del Cinema di Roma ha presentato il film Il delitto Mattarella, l'ha visto per noi Giorgio Stamatopoulos. Buongiorno Piera, il film è un vero e proprio affresco della DC siciliana di quegli anni, delle relazioni pericolose fra politica e versione neofascista e mafia che l'ex presidente della regione Piersanti Mattarella provò a contrastare invano fino al giorno in cui venne ucciso, il 6 gennaio dell'80, da sicari rimasti a tutt'oggi ignoti. Da Andreotti ad un giovane giudice Falcone che indaga sugli appalti truccati del famoso sacco di Palermo, passando per la banda della Magliana e per il caso Sindona, il film nelle sale dal 2 luglio prossimo ricchissimo e anche denso di personaggi e fatti che ci restituiscono una ricostruzione filologica puntigliosa di quei mesi cruciali intorno al delitto e più in generale degli intrecci inconfessabili che da Roma a Palermo condizionano in quegli anni la vita pubblica della Sicilia e l'intero paese. La truppa e il cast interamente siciliani, da David Coco che interpreta Piersanti Mattarella a Tony Sperandeo che interpreta Vito Ciancimino, il famoso assessore ai lavori pubblici, sono un ulteriore tributo alla memoria dell'ex presidente della regione cui in 40 anni nessuno ha mai dedicato nemmeno una strada, ricorda polemico il regista, a cui abbiamo chiesto quando ha cominciato a lavorare al progetto e io, lasciandovi appunto con la risposta del regista Aurelio Grimaldi, vi restituisco qui dalla Casa del Cinema di Roma la linea. Io ho cominciato a scrivere la sceneggiatura una settimana dopo l'elezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Avevo una gran cartelletta con tanti materiali su Piersanti Mattarella e dicevo, vabbè, un giorno sarebbe bello fare sto film, ma sentivo che non era l'ario, non avevo il coraggio. Con l'elezione di Sergio Mattarella ho pensato, ora mai più. Prima che fanno una mala fiction, come diciamo noi, l'uso mala in siciliano, ci provo. E sono stati 5 anni molto molto lunghi, faticosi. Ora spero che gli italiani e gli europei abbiano voglia di tornare al cinema dopo tanto tempo e magari scelgono il nostro film. E siamo allo sport, ci affacciamo ad una fine settimana che farà felici gli amanti del calcio e ieri sera è arrivata l'ufficializzazione della quarantena soft per le squadre professionistiche. Giovanni Capuano. Sì, buongiorno Piera, adesso siamo veramente arrivati alla vigilia della ripresa del campionato delle 124 partite, una volata che dovrà portare all'assegnazione dello scudetto entro il 2 agosto. L'ultimo nodo è stato sciolto nella serata di ieri quando è arrivato il provvedimento amministrativo del governo che ha di fatto sdoganato la quarantena soft e dato solide speranze al campionato di riuscire a terminare. Che cosa significa in pratica? Significa che se anche dovesse registrarsi la positività di un calciatore, di un tecnico, di un componente dello staff, la squadra non sarà costretta alla quarantena per 14 giorni e dunque a far saltare le partite. Soltanto il singolo verrà isolato, gli altri giocatori del gruppo squadra andranno in ritiro, subiranno test sierologici e se negativi il giorno della partita potranno uscire dalla quarantena, disputare la gara e poi tornare al ritiro. Insomma, una sorta di modello tedesco rivisto all'italiana. Oggi, come detto, è giorno di vigilia, manca ancora un nodo da sciogliere, quello della televisione in chiaro, che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore, almeno per le prime giornate, e poi tutto il quadro sarà pronto e anche la Serie A potrà rimettersi in movimento. Te la linea. Grazie, grazie a Giovanni Capuano. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo insieme per parlare di scuola, come riaprire a settembre. Sarebbe bello saperlo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Effetto giorno. Al Consiglio europeo il piano per la ripresa dopo la pandemia è la recessione più grave dalla seconda guerra mondiale, piano da varare entro l'estate, avverte la cancelliera Merkel. Sassoli, nessun passo indietro. Coronavirus, isolato in Cina il Peking University Hospital, in Italia nuovo focolaio in una casa di riposo in provincia di Alessandria. Serie A, domani la ripartenza, sciolto anche l'ultimo nodo, quello della quarantena soft in caso di nuovo positivo. Scuola, le regioni scrivono alla ministra, non serve dividere le classi, in molte aule il distanziamento c'è già. Noi abbiamo fatto una proposta alle regioni per riaprire il 14 di settembre, se parliamo dell'intera comunità scolastica. Sulle linee guida siamo addirittura d'arrivo, ci vuole soltanto adesso qualche giorno per mettere a punto. Ecco, così martedì parlava la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina proprio ai nostri microfoni a Radio 24 nella notte prima degli esami. Qualche giorno prometteva. Oggi siamo a venerdì, ancora tutto tace, staremo a vedere. Mentre cresce la preoccupazione di chi poi quelle linee guida dovrà metterle in pratica. Fra poco sentiremo un dirigente scolastico. Ora invece salutiamo Cristina Grieco, assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana e coordinatrice della Commissione Istruzione Conferenza delle Regioni. Buongiorno. Buongiorno a voi radioascoltatori, buongiorno. Allora, le regioni spingono per avere al più presto queste benedette linee guida perché le scuole devono mettersi al lavoro, metro alla mano proprio possiamo dire, per capire come organizzarsi. Mancano meno di 3 mesi alla riapertura delle scuole, l'ha annunciato nei giorni scorsi l'Azzolina, si riapre il 14, in realtà si riapre il primo per chi deve saldare i debiti e deve fare i corsi di recupero, e non c'è davvero un giorno da perdere se vogliamo sperare che i nostri figli tornino a scuola e non siano costretti ad altri mesi di didattica a distanza con tutti i limiti di cui abbiamo parlato molto qui su Radio 24. Allora, regioni che premono, tanto che hanno scritto le loro proposte, le loro linee guida, le hanno inviate alla ministra. Secondo voi non sarà necessario dividere le classi italiane perché gli spazi per il distanziamento post-Covid già ci sarebbero, è così? Ma allora, non si può affermare questo in generale. Quello che noi diciamo è che forse la situazione potrà essere in relazione anche alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico meno grave come ci si immaginava all'inizio, cioè di dover dividere tutte le classi. Poi cosa ve lo fa dire? Cosa ve lo fa dire? No, il fatto che il garantire un metro lineare di distanza, che è l'indicazione del CTS, vuol dire prevedere 2 metri quadri ad alunno, perché naturalmente un quadrato di 1,40 m permette il distanziamento di 1 metro. E quindi queste più o meno sono già le misure per le scuole superiori, per esempio, che previsto da un decreto precedente. Certamente questo non vuol dire che non ci sarà bisogno di fare interventi, ma che ci potremo concentrare, e su questo stiamo lavorando con il Ministero, e appunto noi abbiamo fatto la nostra proposta, ma insomma andremo ad un'intesa ovviamente fra i due livelli di governo, ma stiamo lavorando anche sugli uffici scolastici regionali per individuare quelli che saranno i casi critici che necessiteranno quindi di interventi specifici. Certo, però per individuare i casi critici bisogna prima capire quali saranno queste linee guida e queste regole, quindi c'è un problema davvero di tempistica. C'è un problema di tempistica, ne siamo consapevoli noi che siamo sui territori e quindi raccogliamo le preoccupazioni dei dirigenti scolastici, ma anche degli amministratori locali. Ne è consapevole anche la ministra, con cui c'è un rapporto serrato e quotidiano, e quindi io credo che nei prossimi giorni proprio potremo andare a convergere su un testo. Noi abbiamo dato il nostro contributo, che credo potrà essere recepito in tutto e in parte, però la decisione anche della conferenza dei presidenti delle regioni di ieri è quella di dare poi un'intesa su tutto il pacchetto, quindi sull'ordinanza, sulla data di avvio delle lezioni e anche sul come ripartire, cioè sulle linee guida. Certo, state lavorando in massima collaborazione, però insomma davvero si continua a dire qualche giorno. Qual è il problema per buttare fuori queste linee guida? Probabilmente bisogna tener conto di tutta una serie di fattori, di possibili scenari, però che sono urgenti lo sappiamo tutti. Insomma, basta vedere che insomma le scuole, i dirigenti scolastici, metro alla mano, come diceva lei, stanno aspettando di vedere quali classi, diciamo, non hanno delle aule abbastanza capienti per trovare anche delle soluzioni. Quindi io credo che la prossima settimana potrà essere decisiva. Così speriamo davvero, perché insomma siamo praticamente ormai in dirittura d'arrivo. Noi faremo la nostra parte, ecco, come regione ovviamente. Come le vede le regioni? Come immaginano queste classi di settembre nelle linee guida, proprio in 30 secondi? Ma in realtà noi abbiamo dato delle indicazioni molto pragmatiche, insomma. Cioè appunto i punti principali sono il distanziamento, il divieto di assembramento, quindi quello che ci ha detto il comitato tecnico scientifico, quindi con delle accortezze per l'ingresso, per l'uscita, per la consumazione dei pasti. E il punto principale più anche critico è quello di capire se le aule o se tutte le aule sono adatte a contenere le classi così come con la numerosità di alunni che hanno quest'anno. Non sarà così, però dobbiamo al più presto appunto applicare dei parametri certi, individuare le classi oggetto di criticità, affinché ovviamente i dirigenti scolastici nella loro autonomia organizzativa e didattica, ma anche gli enti locali, possano predisporre le soluzioni più opportune. Anche perché se queste classi non fossero abbastanza ampie per accogliere tutta la classe, vuol dire che metà resta a casa con la didattica a distanza, oppure che bisogna trovare un altro spazio, ma per trovare un altro spazio il 20 di giugno facile non è. Sì, questa la posizione delle regioni sulla didattica a distanza, soprattutto sul primo ciclo, è quella di evitarla assolutamente, perché insomma è stata una didattica importante nell'emergenza, ma dobbiamo far di tutto, come dice la ministra stessa, per essere a scuola in presenza, in sicurezza. Se poi degli alunni rimangono fuori, lì ci possono essere soluzioni diverse. Supponiamo che l'aula non sia idonea a ospitare 25 alunni, ma 21, faccio un esempio, e per gli altri 4 si possono trovare delle soluzioni anche a gruppi di classi diverse, per esempio a rotazione per fare attività diverse. Cioè non c'è una formula generale di soluzione. Sì, però è una formula ancora tutta da inventare, insomma. Esatto, il 20 di giugno esatto. Forse sarebbe il caso di capire che cosa succede. Grazie. Su questo siamo d'accordo. Però, grazie mille, insomma, però insomma tutti al lavoro. Esatto. Grazie a Cristina Greco, assessore all'istruzione della Regione Toscana e coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni. E parlavamo poc'anzi di persone che devono organizzarsi in vista di settembre, e siamo in collegamento con Emanuele Contu, che è dirigente scolastico dell'Istituto Poecher Olivetti di Rho, alle porte di Milano. Contu ha appena scritto un libro, Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome, scritto per Il Mulino insieme a Marco Campione, un libro che casca a fagiolo in questo periodo perché fa proprio il punto sulla legge che istituiva l'autonomia scolastica delle scuole. Allora, Contu, buongiorno, benvenuto a Effetto Giorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, intanto una domanda sulla maturità, perché insomma ne abbiamo parlato tanto, poi adesso è un po' sparito dai radar. Come sta andando questa settimana? Ma sta andando bene, devo dire, ci siamo un po' abituati a questo sorta di paesaggio lunare in cui dobbiamo effettuare i colloqui, però in qualche modo si compensa con l'empatia il fatto di stare dietro delle maschere, di doversi disinfettare le mani e via dicendo. Io credo che dopo 4 mesi di distanza totale già questo tipo di riavvicinamento e di ritorno nelle scuole sia comunque un segnale importante, certo. Un momento che stiamo vivendo anche con una certa gioia. L'abbiamo detto, no? È un po' un assaggio di quello che speriamo, e diciamo sempre tra virgolette speriamo, fra parentesi, succederà a settembre. Lei che è un dirigente scolastico e quindi sarà fra quei presidi disperati che è lì col metro che misura fra un banco e l'altro, come la vede? Ma intanto no, dai, non siamo disperati, perché non si può fare questo mestiere senza essere persone di speranza, mi viene da dire. E la vedo comunque complessa, nel senso che non possiamo nasconderci dietro un dito. Le strutture, gli edifici che ospitano la stragrande maggioranza delle nostre scuole sono strutture comunque vecchie, e da un punto di vista dell'età e da un punto di vista della concezione architettonica. Per esempio il suo istituto ce la fa a avere tutti in classe con queste regole che forse conosceremo la prossima settimana, ma che insomma di cui si comincia a parlare, no? Sicuramente allora, il distanziamento forse è il punto chiave, nel senso che finché non abbiamo dei parametri entro i quali poi progettare è molto complicato rispondere a questa domanda. Io poi ho 2 sedi, una alle aule un pochettino più grandi, una aula un pochettino più piccole, non tutte le aule sono delle stesse dimensioni, quindi è proprio fondamentale per noi, sentivo che ne parlavate anche prima con l'assessore della Regione Toscana, arrivare ad avere dei parametri e dei punti di riferimento chiari a partire dal quale poi le scuole con la loro autonomia possano effettivamente assumere delle decisioni. Ma lei ce la farà a mettere tutto a posto, a puntino? Insomma, ci sono i tempi, fermo restando che appunto le linee guida non ce l'abbiamo, quindi non sappiamo quali sono le regole che lei dovrà applicare, però insomma i tempi tecnici ci sono secondo lei? I tempi tecnici ci sono con delle grosse forzature, nel senso che parliamo di decisioni che impattano sulla dimensione dell'organizzazione didattica e sulla dimensione dell'organizzazione del lavoro. E quindi noi dovremmo prevedere tutta una serie di passaggi con i collegi docenti, con l'RSU e così via, ma sappiamo bene che tra luglio e agosto questi passaggi nelle scuole diventano molto più complicati. Per il semplice insomma, motivo, lei mi sta dicendo che i tempi sono davvero scarsissimi, no? Sono molto molto molto scarsi, assolutamente. No, perché poi se non si riesce, che succede? Li teniamo di nuovo a casa a fare la didattica a distanza? Non è possibile. Io direi che non si può non riuscire e penso che questo ce l'abbiamo ben chiari tutti. Per cui ripeto, non ci nascondiamo dietro un dito, non nascondiamo il fatto che queste indicazioni, queste linee guida stanno arrivando con eccessivo ritardo rispetto a quello che dovrebbe essere, ma faremo di necessità virtù. È evidente che il rientro a settembre è una condizione irrinunciabile. Da lì a ritroso si parte per costruire tutto il resto. Speriamo. Ci fa piacere che lei, insomma, la pensavamo più disperato, invece è ottimista, meno male. grazie ad Emanuele Contu, dirigente scolastico del Puecher Olivetti di Rho e autore di Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome. Noi ci lasciamo per le borse, poi torniamo insieme. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Al Consiglio europeo il piano per la ripresa dopo la pandemia. Conte, dobbiamo assolutamente chiudere l'accordo entro luglio. È la recessione più grave dalla seconda guerra mondiale, avverte la cancelliera Merkel. Coronavirus isolato in Cina, il Peking University Hospital. In Italia nuovo focolaio in una casa di riposo in provincia di Alessandria. Scuola, le regioni scrivono alla ministra, non serve dividere le classi in molte aule, il distanziamento c'è già. L'assessore all'istruzione alla Toscana, in Toscana, Grieco, a Radio 24, bisogna fare presto. Bonus vacanze, a Jesolo al via la convenzione per gli albergatori, soldi in cambio del credito d'imposta. Il punto di Alberto Orioli. Oggi l'Europa misura la temperatura della sua Unione impegnata a mettere a punto il Recovery Fund, il Fondo per la Ripresa, una novità della storia europea che per la prima volta mette in comune le risorse per l'emissione di titoli di debito comune. L'Italia si attende molto da questa svolta, almeno 170 miliardi, se vogliamo limitarci al semplice calcolo ragionieristico del contributo, ma è soprattutto uno stimolo a fare meglio, innanzitutto nella capacità di spendere i fondi europei e di progettare futuro, insomma l'Italia del prossimo decennio. È la vera sfida per un paese che spende i fondi europei in una corsa a progetti di cartone presentati in genere all'ultimo anno e si detto tra parentesi, proprio per questo dobbiamo ancora spendere oltre 30 miliardi. Ma sarebbe uno sguardo da piccolo cabotaggio se ci fermassimo qui e se usassimo soltanto occhiali da Italietta. In gioco c'è l'idea di Europa del futuro e lo ha detto bene Angela Merkel. I sovranisti e i populisti anti-Europa non aspettano altro che cavalcare un fallimento dei 27 nel gestire proprio il Recovery Fund. E allora sì che la pandemia avrebbe distrutto anche l'unico orizzonte politico degno di questo nome per chi abbia l'avventura di essere nato in questo vecchio continente, che ha ancora l'ambizione di essere quello spazio privilegiato della speranza umana, così come stava scritto nella sua Costituzione. L'abbiamo sentito nei GR, ma anche nei nostri approfondimenti. Bene, molto bene, il bonus vacanze in arrivo, anche se il meccanismo non è semplicissimo. Il pericolo è che le famiglie facciano fatica ad utilizzarlo e che le strutture ricettive siano prudenti nell'accettarlo. E allora da qui nasce un'iniziativa che ci porta a Jesolo. Salutiamo Alberto Maschio, che è presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori e coordinatore di Federalberghi Spiagge Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, è nata un'iniziativa per aiutare gli albergatori e in relazione proprio al bonus vacanze, ce la racconta? Sì, ve la racconto in breve. Tutto parte dall'esigenza di un'associazione, che è quella di essere a servizio e essere utile ai soci in primis. Questa idea del bonus vacanze è stata partorita, come molte delle iniziative in questa fase, devo dire malamente. L'unico buon principio era quello legato alla non intermediazione della prenotazione. Per il resto era difficile capire come usufruirne sia lato famiglie e come scontarlo lato aziende, ma il problema principale era che in un momento in cui le aziende hanno necessità e bisogno di liquidità, ed è quello che chiediamo fin dall'inizio di questa problematica, pensare al credito d'imposta come soluzione per aiutare le aziende è quanto di più lontano ci sia dalla realtà. Noi in questo abbiamo optato per una soluzione che vede una collaborazione tra le associazioni di categoria, in questo caso la nostra, e il sistema dei Confidi, quindi Fidimpresa Turismo Veneto, la quale è disposta a fine stagione, presumibilmente, ad acquisire quindi il credito accumulato dalla singola struttura nell'arco della stagione, e quindi immettere la liquidità necessaria nelle casse dell'azienda. E così, insomma, aiuta gli albergatori direttamente e più rapidamente, perché sono un po' i tempi, no? Quelli che spaventano. Assolutamente, noi stiamo iniziando, anzi siamo già partiti con una stagione che già si rivelerà difficile e complicata per molti motivi. Le risposte dobbiamo darle in maniera estremamente rapida, e su questo tema in particolare non c'era ancora chiarezza. Un po' di chiarezza ce la siamo fatta noi e abbiamo sopperito in tal senso. Ecco, ci avviciniamo al fine settimana, Maschio. Come sta andando? Si stanno rivedendo i turisti stranieri? Si riaffacciano? Piano piano si torna un po' alla normalità? Allora, io credo che la normalità che ricordavamo è ancora lontana. Si inizia a vedere qualche movimento, sia dal mercato interno che dai mercati americani per tutta la costa adriatica, quindi mercati di lingua tedesca, anche se ancora con una certa prudenza. Siamo decisamente in ritardo nei numeri, però insomma qualche segnale che trasmetta un po' di cauto ottimismo c'è. Speriamo si tramuti in qualcosa di non positivo, ma quantomeno non così negativo come immaginavamo fino a qualche tempo fa. Ecco, ci fotografi la situazione degli albergatori della sua zona? C'è molta cassa integrazione, molte persone sono state lasciate a casa? Allora, guardi, la cassa integrazione per noi è pressoché inutile, per noi stagionali, perché noi in questo momento, infatti, avevamo chiesto, sempre da ieri era partita la richiesta della decontribuzione dei rapporti di lavoro, perché noi in cassa integrazione, nel momento in cui dovevamo ancora assumere il nostro personale, perché la problematica è partita prima, la stagione mediamente parte da aprile, noi abbiamo un problema di assunzioni. Molta gente resterà a casa, 12.000 lavoratori solo nel comparto alberghiero, solo della costa veneta. Molti di questi avranno dei problemi a trovare assunzioni, a trovare un posto di lavoro quest'anno, quindi avremo un problema sociale poi da ottobre in poi che dovremo affrontare. Noi avevamo chiesto una decontribuzione per aiutare le aziende ad ammortizzare il costo del lavoro, che sappiamo essere la prima voce di costo in bilancio per gran parte delle nostre strutture. Noi eroghiamo servizi, i servizi vengono erogati sia con un'occupazione del 10% che con l'albergo sold out, la reception, il cameriere, il barista ci devono essere comunque, quindi non posso usare la cassa integrazione. Certo, certo, in questo caso non è possibile. Maschio, io la ringrazio, faccio un in bocca al lupo a tutti gli albergatori jesolani come quelli del resto di tutto il resto del paese, in bocca al lupo che questa stagione in qualche modo riparta. Grazie mille. Ce l'auguriamo e vi aspettiamo. Allora, una notizia che leggo, mi fa piacere condividerla con voi, è forse il suo sogno più grande, portato avanti al rischio della propria vita, finalmente lo ha realizzato. La 22enne Malala, ve la ricorderete, si è laureata all'Università di Oxford in un corso di laurea iniziato nel 2017 che comprendeva materie come filosofia, politica ed economia. La giovane, ricorderete, nel 2012 in Pakistan era scampata ad un attentato dei talebani. Violenze, disagi, povertà, bambini e adolescenti nell'era Covid sono sempre più a rischio. Un'anticipazione del reportage che andrà in onda sabato alle 8:15 qui su Radio 24 a cura di Livia Zancaner. Il lockdown è come si ha acuito i problemi, li ha portati all'esasperazione, perché loro non avevano più nemmeno quelle 8 ore di libertà che avevano quando il papà e il marito andava in fabbrica. Quindi sono arrivati a fine aprile già con un livello di esasperazione spaventoso. Così ci racconta Claudio Strata, avvocato di Alex, il 18enne che il 30 aprile ha ucciso il padre per difendere la madre. Una storia di violenza che dura da 10 anni e che non è un caso isolato. In Italia molti bambini e adolescenti vivono situazioni di maltrattamenti che con l'isolamento conseguente all'emergenza sanitaria sono aumentate, ci spiega Ernesto Caffo, presidente Telefono Azzurro. Per quanto riguarda Telefono Azzurro, le nostre richieste di aiuto sono state mediamente del 30-40% nelle linee di ascolto e analogamente sulla linea di emergenza, molto superiore a quello che noi ci aspettavamo, tanto che abbiamo dovuto aumentare i servizi per alcune settimane e cercando di dare una risposta giorno e notte a queste richieste. Finito il lockdown, le segnalazioni crescono poiché bambini e ragazzi realizzano sofferenze magari rimosse anche per la mancanza della scuola e del rapporto con i coetanei, un'assenza che si traduce in povertà educativa e si somma alla povertà assoluta. 1 milione i minori in più a rischio causa Covid, stima Save the Children. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi ci fermiamo per qualche istante, Strade in diretta, poi uno sguardo ai media internazionali con Giulia Crivelli.